ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo decimo. Maggio e il miracolo di San Gennaro. Il dolce aprile aveva fatto sbocciare tutti i fiori dei giardini, degli orti, delle terrazze e dei balconi napoletani. Dovunque vi era un po' di terra riscaldata dal sole, irrorata dalle brine, era spuntato un fiore. Fiori semplici, fiori grezzi, fiori di popolo, tutta una flora umile e senza raffinatezze, senza squisitezze composite di tinte e di profumi, ma vivace, ma folta di petali carnosi. Aprile aveva fatto sbocciare le grosse rose odorosissime, larghe, che avevano il vivido colore palpitante di sangue. E i garofani, amore delle popolane, i garofani bianchi, rossi, screziati, scritti, come li chiamano poeticamente, quasi quelle screziature fossero mistiche parole. E le viole semplici e doppie, bianche, gialle, rosse, amore delle ragazze borghesi che le coltivano sui balconi settentrionali e umidi di Via Foria, e la malvarosa, dalle frondi verdi profumate, dal piccioletto fiore roseo, ma soprattutto dovunque ancora le rose e i garofani, le magnifiche rose vellutate, quasi procaci, e i garofani così ricchi e grassi che facevano scoppiare l'involucro verde. Calendì maggio è bello in Napoli, per il soffio carezzoso dell'aria, per le vivide strisce di cielo azzurro che finiscono per dar gaiezza alle strade più tetre e più cupe. È bello Calendì maggio per le rose che germogliano da tutte le parti, che pare sgorghino finanche dalle mani delle donne e dei fanciulli, per tutti i semplici fiori dei giardini e degli orti. È in Calendì maggio che le reliquie di San Gennaro sono portate dal Duomo, dove sono preziosamente deposte nei sotterranei che portano il nome di Succorpo e Tesoro di San Gennaro, alla chiesa di Santa Chiara, perché il santo si degni, pregato dalla popolazione, di fare il miracolo della ebollizione del sangue. Più rigoglioso in quell'anno sorgeva l'affetto del popolo per San Gennaro, come se un novello impeto di fede avesse ingagliardito le buone anime popolane. A una certa ora la circolazione delle carrozze fu impedita per Forcella e per i tribunali, e tutti coloro che in quel giorno partivano da Napoli o vi arrivavano per andare dalla stazione alla città o dalla città alla stazione dovevano fare un lungo giro per la via Marina o per la via di Foria. Al passeggero distratto che domandava la ragione dell'interminabile cammino, il cocchiere rispondeva «San Gennaro» e si toccava il cappello con la frusta per salutare il patrono. E cercava di affrettare il passo del suo cavallo, non per lo zelo, ma per andarsene anche lui, il cocchiere, dopo aver messa la carrozzella in un portone o dopo essersi fermato con essa in un cantone di via a vedere passare il glorioso sangue di San Gennaro. Nella grande e bella chiesa di Santa Chiara, tutta bianca di stucco e carica di dorature, simile a un amplissimo salone regale, la folla aspettava il miracolo di San Gennaro. Non era ancora notte, ma migliaia di ceri sull'altare maggiore, nelle cappelle e specialmente agli altari della Madonna e dell'Eterno Padre, illuminavano la vasta chiesa, ricca ed elegante. Sull'altare maggiore, sopra la bianca finissima tovaglia, in un piatto d'oro era esposta la testa di San Gennaro, con la mitria vescovile gemmata, con la faccia rivestita d'oro. E più in mezzo erano le due ampolline del prezioso sangue coagulato esposto alla venerazione dei fedeli. Intorno all'altare maggiore, dentro la balaustra di legno antico scolpito che separa l'altare maggiore e un grande spazio dal resto della chiesa, erano le 46 statue di argento che fanno la guardia di onore alle reliquie di San Gennaro. E innanzi all'altare maggiore il cardinale arcivescovo, insieme coi canonici, officianti il santo patrono di Napoli per chi volesse fare il miracolo. Dentro la balaustra, accanto all'altare maggiore, un solitario e favorito e fortunato gruppo di vecchie e di vecchie, tutti vestiti di nero, con fazzoletti e cravatte bianche al collo, gli uomini a capo scoperto, le donne col velo nero sui capelli. Il gruppo osservato, commentato, invidiato da tutti gli altri devoti, il gruppo dei parenti di San Gennaro. Il gruppo che solo aveva il diritto di salire sull'altare maggiore, di vedere il miracolo a mezzo metro di distanza. Poi l'immensa folla, nella grande unica navata di Santa Chiara e in tutte le cappelle laterali, fin fuori le due grandi porte, fin sugli scalini, fin nel chiostro di Santa Chiara, donde gli ultimi arrivati si rizzavano sulla punta dei piedi, presi dal bagliore di quelle migliaia di ceri, cercando di vedere qualche cosa, tormentandosi invano per spingersi un passo innanzi, mentre non vi era posto più per nessuno. E tutti agitati, inquieti, dal cardinale arcivescovo che orava, inginocchiato innanzi all'altare, all'ultima umile femminetta del volgo, tutti attendevano che il divo Gennaro compisse il miracolo. Fervorosamente, col capo abbassato sulla sedia che aveva dinanzi, con la ingenua pietà del suo cuore giovanile, Bianca Maria Cavalcanti pregava, in quell'appressamento del miracoloso istante. Pregava San Gennaro nel nome del suo prezioso sangue di dar la pace al cuor di suo padre, di dar la fede al cuor di Antonio Amati, e candidamente, nella grande, saggia, profonda bontà dell'anima sua, nulla chiedeva per sé, bastandole che il cuore turbato, ammalato, straziato di suo padre avesse la tranquillità, bastandole che nel forte e fermo cuore di Antonio Amati, accanto all'amore umano, entrasse la più alta tenerezza dell'amore divino. Ecco, fra poco si sarebbe compiuto uno dei più grandi miracoli della religione. Non poteva San Gennaro fare il miracolo in quei cuori, che essa adorava con tutte le sue forze? Bianca Maria, con le guance insolitamente accese di un sottil fuoco, di un sottil rossore, pregava con una forza contenuta di mistico entusiasmo, con una passione nuova che era entrata a far divampare la sua gelida vita. Sull'altare maggiore, con la faccia volta al cielo e traspirante un'immensa fede, con la voce tremante di una commozione invincibile, il cardinale arcivescovo aveva detto le preghiere latine, dedicate al divo protettore di Napoli, e tutta la folla aveva risposto un lungo e tonante Amen, Amen. Avevano risposto le monache e patrizie di Santa Chiara, nascoste dietro le inaccessibili graticciate del grande coro e dei coretti. Dopo gli oremus vi furono 2 o 3 minuti di profondo silenzio e il soffio precursore delle grandi cose parve fosse passato su quel popolo orante. Il gruppo dei parenti di San Gennaro sull'altar maggiore intuonò il credo in italiano con grande impeto e tutta la chiesa continuò il credo. Finito il credo, 2 minuti di aspettativa, molto inquieti, per vedere se cominciava il miracolo. Ma fu ripreso subito un secondo, un terzo credo, con tale vigoria di intonazione, come se tutto il popolo proclamasse di credere, giurasse di credere sulla propria coscienza, dandosi alla fede, nello spirito e nelle fibre, con un grande fragore. Inginocchiato, col volto fra le mani, il cardinale arcivescovo orava ancora in silenzio. Dietro a lui, impetuosamente, a brevissimi intervalli, intuonati dai parenti di San Gennaro, ripetuti da tutta la folla, il credo continuavano. E qua e là, fra il rombo generale, spiccava qualche nota profondamente grave di cuor desolato, spiccava qualche nota acutissima di fibre tormentate. «Io credo!» gridava la popolazione con uno schianto di voce in cui parea si rompessero 1000 speranze, 1000 voti, 1000 preghiere. Anche Luisella Fragalà, seduta in un angolo della chiesa, accanto alla malinconica signora Parascandolo, credeva profondamente. Tanto che nella piccola convulsione che cresceva nei suoi nervi di creatura pietosa e religiosa, le lacrime già le scorrevano sulle guance in silenzio. E nella oscura previsione di una sventura che la sentiva avanzarsi, senza vederla, senza distinguerla, ma sentendola implacabile nel suo viaggio, ella chiedeva a San Gennaro la forza che egli ebbe nel suo atroce martirio per sopportare il misterioso cataclisma che le sovrastava. Anche la signora Parascandolo pronunciava il credo. insieme col popolo, con voce fioca. Ma nelle pause quasi paurose per la trepidazione del miracolo imminente, la povera signora, orfana di tutti i suoi figli, chiedeva a San Gennaro perché le ottenesse una grazia, perché la togliesse dalla terra d'esilio, donde tutti i suoi figliuoli erano fuggiti, lasciandola sola, brancicante nell'ombra e nel freddo. E la felice madre della Rosa e Bruna Agnesina, come la madre infelicissima egualmente trafitte, una dal passato, l'altra dall'avvenire, ambedue domandavano, con le lacrime negli occhi, la forza per vincere, la forza per morire. Ma l'ansia del popolo pregante cominciò al quindicesimo credo. Le parole della fede suonavano squillanti, come una sfida gittata alla incredulità, ma portavano il tremore di non so quale ignota paura. La pausa fra un credo e l'altro si prolungava, gittando il popolo in un accasciamento d'attesa che pareva ne troncasse i nervi. La ripresa era fatta entusiasticamente, quasi il grande sentimento rinascesse formidabile, come tutti i sentimenti della folla. Le più furiose di passione mistica erano le vecchie dell'altare maggiore, ma dietro di loro una vampa correva da un cuore all'altro, portando l'incendio divoratore anche nei molli, indolenti temperamenti, anche fra gli scettici che fremevano, quasi una rivelazione ancora oscura li avesse colpiti e si venisse chiarendo ai loro occhi. Al ventunesimo credo, il silenzio dell'aspettazione ebbe qualche cosa di angoscioso. Tutti gli occhi andavano dalla testa del santo, giacente nel vassoio di oro, alle ampolline di cristallo trasparentissimo, dove si vedeva il grumo nerastro e duro del sangue. La testa scintillava nella sua mitria gemmata, nella sua maschera gialla d'oro, dai riflessi metallici un po' lividi. Il sangue era lì cagliato, una pietra che le preghiere non arrivavano a spezzare. E al ventiduesimo credo, intuonato con uno scoppio di collera, qualche grido si udì, di chiamata, di invocazione, disperatamente. San Gennaro! San Gennaro! San Gennaro! San Gennaro! San Gennaro! Urlò il popolo eccitato bizzarramente. Laggiù, verso il fondo della chiesa, presso la muraglia dove dolcifica la vista coi suoi scialbi colori quella smorta e soave Madonna che dicono sia di Giotto, la figura di Don Pasqualino l'assistito era tutta una preghiera. Stava ritto, ma aveva la testa e le spalle piegate, in un atto di profondo ossequio. E quando ogni tanto, stanco o ispirato, levava la faccia, guardando il cielo dorato e pitturato della chiesa, il bianco dell'occhio pareva stragrande, smisurato, e ogni colore era svanito sulle guance, dove un livido pallore andava crescendo. Attorno a lui, per un magnetico potere di attrazione, tutti coloro che credevano in lui e nelle sue visioni si erano venuti raccogliendo, tutti turbati in volto, tutti in preda a una disperazione repressa che pure scoppiava sulle diverse fisonomie. Tutti giunti in fondo a un abisso di dolore, poiché anche quel sabato aveva portato loro una delusione immensa. 2 ore prima, con l'estrazione dei numeri. Tutti curvati sotto un rimorso mordente, sentendosi ognuno colpevole verso gli altri e verso se stesso. Il marchese di Formosa, curva, quasi decrepita la bella e nobile persona, sentendo l'onta della sua vita senza decoro dove tutto periva, anche sua figlia, in un'agonia di infermità e di miseria. Cesare Fragalà, la cui situazione commerciale sempre più si complicava, sentendo egli la freddezza dei suoi amici negozianti, dei suoi corrispondenti, sentendo la malinconia palese di sua moglie e le sue segrete apprensioni, e sperando sempre, sempre invano, di accomodar tutto con una grossa vincita. Ninetto Costa, pallido e sorridente, con gli occhi cerchiati dalle veglie e dalle preoccupazioni, pensando ogni tanto alla sua catastrofe, scegliendo ogni tanto, mentalmente, fra la fuga disonorante e il colpo di rivoltella che non assolve ma che pacifica. Il barone Lamarra, grosso, grasso, floscio, maledicente i suoi sogni ambiziosi di pezzente risalito, fremente all'idea di quella cambiale firmata da lui e da sua moglie. L'avvocato Marzano, il cui dolce sorriso pareva quello di un ebete e che ogni settimana aumentava le sue privazioni per poter giocare, avendo cessato di fumare, di prendere tabacco, di bere vino, avendo impegnato la sua cartella di pensione, essendo malamente complicato in equivoci affari. Colaneri e Trifari, il professore e il dottore, che non trovavano più studenti, e il primo specialmente sentendo intorno a sé il sospetto, il discredito, temendo ogni mattina quando entrava in scuola di essere cacciato via da un ordine superiore, di essere accoppato dagli studenti. Tutti, tutti, in preda a quella desolazione del sabato sera, l'ora negra, l'ora terribile in cui solo la coscienza parlava, alta, dura, inflessibile. Eppure erano in chiesa. E i più indifferenti, i più increduli, mormoravano qualche parola di preghiera. Eppure erano ancora attorno all'assistito e lo guardavano ardentemente pregare. E si capiva in quell'attrazione che ancora li aveva vinti, in quegli sguardi bruciati che, passata la dolorosa cogitazione di quel momento, di quell'ora, la passione attendeva per riprenderseli. Ah, ma quell'ora... Quell'ora in quella grande folla che esalava nella preghiera tutta la sua infelicità era tremenda per essi, colpevoli come la fatale notte di Getsemani fu tremenda al grande innocente. Disperati tutti fissavano l'altare maggiore dove ardevano i ceri e si riflettevano sulla metallica faccia del santo. «San Gennà! San Gennà!» urlava la gente a ogni credo che finiva. E lo sgomento che il miracolo non accadesse soffiava su quelle teste, scoppiava in quelle voci. Le parenti di San Gennaro erano convulse di dolore e di collera. Si era giunti al 35° credo. L'ora passava con una lentezza di minaccia. Ed esse, sentendosi nel medesimo tempo offese dal ritardo del loro santo antenato e disperate della sua collera, lo interpellavano così. «San Gennà, faccia d'oro, non ci farà aspettare più! Sei in collera, eh? Che ti abbiamo fatto? Vecchio rabbioso, fai il miracolo al popolo tuo!» Ed era inesprimibile il sentimento di ira, di tenerezza, di devozione, di agitazione che spirava in queste ingiurie, in queste pietose invocazioni. Dice la leggenda che San Gennaro ama molto di farsi pregare, e non si sdegna delle parole che le sue parenti e il popolo gli dirigono. E l'emozione del popolo era tanta che al 38° credo i versetti della preghiera furono detti disperatamente, come se ogni parola fosse strappata da uno strazio supremo, e in fondo scoppiarono le grida: «Faccia verde, faccia gialluta, santo malamente, fai il miracolo, San Gennà!» Il 38° credo fu clamore. Lo dicevano tutti, da un capo all'altro della chiesa, il cardinale, i preti, le vecchie parenti, uomini, donne, bimbi, tutti, tutti presi da un grande furore mistico. E a un tratto, nella pausa di immenso silenzio che susseguì alla preghiera, l'arcivescovo si voltò al popolo. La faccia del sacerdote, irradiata di una luce quasi divina, pareva trasfigurata e la bianca mano, levata in alto, mostrava al popolo l'ampollina. Il prezioso sangue, nel sottilissimo involucro di cristallo, bolliva. Quale urlo! Ne parvero scosse le fondamenta dell'antica chiesa. Ebbe echi così forti e lunghi che sgomentarono i viandanti delle strade circonvicine e parve che le sonore campane del campanile vibrassero sole. E il gran pianto, il grande singhiozzo di tutto il popolo inginocchiato, buttato a terra, singultante con la bocca sul freddo marmo, levante le braccia, dibattendosi sotto la grande visione del sangue che bolliva, non ebbe termine. Come morte giacevano prostrate sull'altare maggiore le vecchie parenti. Una sola possente forza aveva piegato tutta la folla. Era tutto un lamento, tutto un sussulto, tutta una preghiera. Ognuno in quel minuto lunghissimo diceva ad alta voce, fra le lacrime calde e il tremor della voce, la sua parola di dolore. Sull'altare maggiore l'arcivescovo e il clero, tutti in piedi e a voce spiegata, superante la gran voce dell'organo, cantavano il Te Deum.